Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. La legge di Murphy, una legge scherzosa utilizzata spesso nelle barzellette, dice che se qualcosa può andare male, lo andrà. Ebbene, è quello che è successo. Alla vigilia delle elezioni, infatti, gli esperti, gli economisti, più che temere la vittoria di un candidato piuttosto che di un altro, temevano lo scenario dell'ingovernabilità, cioè che l'Italia non avrebbe avuto la possibilità di contare su un governo stabile, ed è quello che è successo. L'esito dell'elezione lo abbiamo davanti. Grazie alla legge Porcellum abbiamo una Camera con una maggioranza sicura, la coalizione sostenuta che sosteneva Pierluigi Bersani con 340 deputati, la coalizione che sosteneva Berlusconi ne ha 124, Grillo ne ha 108 e Monti 45. Ma è al Senato che si è giocata la partita, una partita che è finita in parità, e abbiamo Bersani, la coalizione di Bersani con 120 senatori, la coalizione che sosteneva Berlusconi con 116, l'esito eccezionale di Beppe Grillo con 54 e 18 senatori per la candidatura di Mario Monti. Nemmeno i commentatori politici più esperti sanno tanto che dire rispetto a questi dati. Il bipolarismo in qualche modo è finito, in quanto abbiamo tre coalizioni, tre gruppi politici con diverse idee dell'Italia che verrà a contendersi la guida del paese. Tornare al voto è stata uno dei mantra più ripetuti nella giornata di ieri, ma tornare al voto in che modo, con che legge elettorale, per quali prospettive e soprattutto alla vigilia dell'elezione di un capo dello Stato e quindi con l'impossibilità del capo dello Stato di sciogliere il Parlamento. E governo? Quale governo? Un governo che riproponga l'esperienza del governo tecnico, per cui PD, PDL e centro, con un Grillo che potrebbe crescere, oppure un appoggio esterno di un Grillo al centro-sinistra, di un Grillo che ha detto che non vuole sostenere, non vuole entrare in ciuci come li ha definiti. Qual è il futuro del paese? Lo vedremo nei prossimi giorni con le consultazioni, a vedere anche quello che deciderà il capo dello Stato. Intanto però leggiamo un brano dalla lettera pastorale Octogesima Adveniens di Papa Paolo VI. Conforme alla propria vocazione, il potere politico deve sapersi disimpegnare dagli interessi particolari per considerare attentamente la propria responsabilità nei riguardi del bene di tutti, superando anche i limiti nazionali. Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli, locale, regionale, nazionale e mondiale, significa affermare il dovere dell'uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il bene delle città, della nazione, dell'umanità. La politica è una maniera esigente, ma non è la sola, di vivere l'impegno cristiano a servizio degli altri. Senza certamente risolvere ogni problema, essa si sforza di dare soluzioni ai rapporti fra gli uomini. La sua sfera è larga e conglobante, ma non esclusiva. Un atteggiamento invadente, tendente a farne un assoluto, costituirebbe un grave pericolo. Pur riconoscendo l'autonomia della realtà politica, i cristiani, sollecitati a entrare in questo campo di azione, si sforzeranno di raggiungere una coerenza tra le loro opzioni e l'Evangelo di dare, pur in mezzo a un legittimo pluralismo, una testimonianza personale e collettiva della serietà della loro fede mediante un servizio efficiente e disinteressato agli uomini. È con noi in collegamento telefonico Don Marco Cagol, responsabile della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Abbiamo appena letto un brano dalla Octogesima Adveniens di Papa Paolo VI che ci parla di come la politica sia una maniera esigente, ma non l'unica, di vivere l'impegno cristiano al servizio degli altri. Il Parlamento che abbiamo appena votato, un Parlamento che non ha una maggioranza assoluta, in che modo potrà portare avanti questo servizio verso gli altri, verso il bene comune? Ma evidentemente con un sussulto di responsabilità da parte di tutti coloro che ne sono parte, in particolare delle forze che comunque in parte hanno anche una maggioranza, se non assoluta come la Camera relativa al Senato, per cercare di venire fuori da questa situazione. Evidentemente non è che il Paese si ferma perché il Parlamento è diviso, sarà necessario trovare delle convergenze per mettere mano ad alcune questioni. Direi che una delle più importanti probabilmente è proprio la legge elettorale, che produce questo tipo di anche anomalie all'interno del nostro Parlamento, anche se è vero che il Parlamento tutto sommato rispecchia quella che è la situazione di frammentazione e anche di divisione all'interno del Paese. Le forze politiche evidentemente non hanno lavorato, non lavorano in modo sufficiente per l'unità del Paese, ma in qualche modo hanno un po' esasperato le differenze. E ecco, poi va registrato sicuramente l'assenteismo, l'astensionismo dal voto, che è una fetta consistente del Paese, e poi va registrato evidentemente questo voto, che insomma è comunque un voto politico, che però dice in qualche modo il desiderio di una parte consistente degli elettori di lanciare un segnale, magari inconsapevole, magari un po' istintivo, ma sicuramente chiaro, di un rinnovamento del modo di fare politica. D'altra parte, se per un anno la politica avrebbe dovuto mettere mano ad alcune poche cose riguardanti proprio i meccanismi della democrazia, la legge elettorale, il discorso sui costi e sull'organizzazione della politica e dei partiti, le forze politiche non sono riuscite a farlo, questo è il frutto, ecco, il prodotto. Poi sicuramente ci sono componenti di tipo di disagio anche sociale, economico, che in qualche modo si scaricano in questo modo qui, però insomma direi che il segnale è chiaro, ecco, quindi non è che viene meno la possibilità di servire il Paese in questo Parlamento, perché comunque il Parlamento è il Parlamento e chi c'è vuol dire che si è candidato, e si è candidato a servire il bene comune, si spera, ecco, da parte di tutti. Ecco. Ci fermiamo qualche istante, Don Marco, torniamo tra pochissimo per commentare l'esito di queste elezioni. Il bene di tutti, parliamone. Di più, ma chissà se esiste di più. Tu sei vissuta in mille canzoni, mille emozioni, mille non so, e son qui a parlare ancora di te come fossi pioggia fresca per me, pioggia di maggio, limpida luce, per sempre amore insieme a te. Come stai, dolce stella mia, quanto tempo ti ho lasciata sola sulla scia. Ti ho conosciuta mentre il giorno andava via, e sei arrivata tu, splendida armonia. Quanta volontà, dolce stella mia, per restare qui vicino a me, alla mia pazzia. Hai sopportato con la tua dignità, io mi vergogno un po', ma adesso tu sei mia, sei mia. Oh, oh. Io vorrei tenerti così, nuda sul mio petto così, senza staccarmi, senza ferirti, per sempre amore, sempre così. Come stai, dolce stella mia, quante volte ti ho lasciata sola sulla scia. Io mi agitavo e non vedevo la ferita che ogni volta si riapriva quando me ne andavo via. Sì, me ne andavo via e non tornavo più, fino a quando il cuore mi scoppiava di malinconia e tu in silenzio mi abbracciavi, amica mia. Io mi vergogno, sì, ma adesso tu sei mia, adesso tu sei mia, adesso tu sei mia. E tu in silenzio mi abbracciavi, amica mia. Io mi vergogno, sì, ma adesso tu sei mia, dolce stella mia, stella mia. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con Don Marco Cagol, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, all'indomani delle elezioni politiche che ci hanno consegnato uno scenario difficilmente ipotizzabile in precedenza. I sondaggi ci davano altri scenari, adesso abbiamo a che fare con un Parlamento ingovernabile dove non c'è una maggioranza assoluta. Don Marco, per questa trasmissione in autunno abbiamo intervistato alcuni esponenti politici sulla legge elettorale, sulla necessità di modificare questa legge elettorale che non garantiva a detta di tutti né la rappresentanza né la governabilità. Adesso avremo a che fare, però non si potrà tornare al voto in quanto siamo ancora in regime di semestre bianco e in qualche modo un accordo si dovrà trovarlo. Prima parlava di responsabilità dell'attuale, della classe politica del vecchio Parlamento che non è riuscita a cambiare la legge. Qual è l'urgenza però adesso per il Parlamento, proprio per la base della democrazia, che forse avrebbe bisogno di una nuova legge? Per esempio, una Camera ha una maggioranza schiacciante per 100.000 voti e un Senato ha una maggioranza elettorale più elevata, però i seggi non rispecchiano questa volontà. Sicuramente questo è il frutto della legge elettorale, che peraltro probabilmente in qualche modo non era adeguata, lo si è sempre detto, e quindi va modificata, ma è chiaro che il mettersi d'accordo sulle regole è una della forma più alta di responsabilità da parte delle forze politiche, quindi qui veramente si è di fronte alla richiesta assoluta di responsabilità. Dopo c'è anche però un'altra cosa da dire, cioè la frammentazione del voto, comunque dice anche la frammentazione del Paese, non è solo la legge elettorale, perché è vero che alla Camera il problema è risolto attraverso il premio di maggioranza, però comunque nessuna forza può dire di essere significativamente rappresentativa del Paese. Ecco, poi è chiaro che valgono i seggi e la regola, il dinamismo maggioritario serve proprio a questo, perché che in ogni caso ci sia un governo che governa il Paese, solo che comunque va tenuto anche conto di questa tripartizione quantomeno del consenso, a volte forse anche polarizzata in maniera abbastanza, come dire, significativa. Quindi ecco, probabilmente oltre alla legge elettorale c'è stata anche una sostanziale incapacità forse delle forze politiche di cogliere veramente fino in fondo ciò che stava succedendo all'interno del Paese, e questo è uno dei vizi più brutti della politica, cioè il servizio al Paese si può svolgere nella misura in cui tu il paese lo capisci, lo ascolti, lo conosci. Dopo è chiaro, probabilmente c'è anche un'altra questione che è un po' il modo nostro di cittadini di essere in relazione con la politica. Se per noi la politica è solamente il luogo dove possiamo pretendere delle cose per noi stessi in modo un po' individualistico o istintivo, è chiaro che anche questo poi rende comunque ingovernabile il paese, ecco. Quindi insomma, ci sono vari livelli di lettura che si possono fare, secondo me, ecco. Adesso probabilmente così a caldo, io lo ritengo un commento assolutamente a caldo e privo di riflessione, così queste sono le poche intuizioni che mi vengono, ecco. Sicuramente mi auspico, ecco, veramente un sussulto di responsabilità, perché il paese va governato lo stesso, anche se il Parlamento è così messo, e quindi anche perché i problemi che ci sono sono grandi, sono i problemi del lavoro, c'è il problema dell'economia, ci sono i problemi appunto istituzionali, ci sono delle scadenze istituzionali molto grandi, c'è il problema del debito pubblico, c'è il problema dell'integrazione europea, insomma ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate, ecco. Chissà che sia l'occasione. Famiglia Cristiana ieri nel suo sito, in una sua analisi, ha detto che nel voto sono mancati in qualche modo i cattolici, la presenza dei cattolici in politica è mancata anche un po' nell'esito di queste elezioni. Lei è d'accordo? Ma io vedo che i cattolici erano un po' ben distribuiti ovunque, cioè dipende da cosa vuol dire. Se sì, la presenza, la testimonianza. In quanto tali, sì, cioè non ci sono formazioni che possono identificarsi come cattoliche, però è vero che tutte le forze politiche hanno anche cercato delle personalità significative, ma non tanto direi non solo in termini simbolici, ma anche in termini di contenuto, perché si sono scelte anche persone che hanno delle idee precise circa l'economia, circa la demografia, circa, ecco, il modo di intendere il welfare, ecco. Quindi le idee che vengono un po' dal mondo cattolico non è che siano assenti, sono un po' distribuite. Sicuramente io comunque resto convinto di quello che dico da molto tempo, e cioè che oggi il compito anche del mondo cattolico è quello di creare, di fare cultura, di costruire tessuto sociale, di costruire coesione, di costruire solidarietà, di costruire una visione di cittadinanza, anche se non ci sono delle rappresentanze che possano essere qualificate come tali in senso di forze politiche, per me non è un problema in questo momento. Può la protesta diventare proposta? Dipende dalle persone che interpretano la protesta. Comunque le persone che sono in Parlamento sono persone che hanno una loro responsabilità e che possono anche far mutare, diciamo, una mera protesta in qualcosa di costruttivo. Io ho fiducia negli uomini e nelle donne che sono in Parlamento, almeno così, di primo acchito non posso che dargliela, poi dopo staremo a vedere. La campagna elettorale ha in qualche modo aiutato uno stile di comunicazione aggressivo, le promesse, la campagna elettorale intesa come mondo dove tutto è possibile, dove fiducia, speranza, piuttosto che il pragmatismo? Ma la campagna elettorale è sempre qualcosa di un po' falsato, secondo me è stato un po' meno falsato del solito, nel senso che comunque ci sono state delle variabili che hanno un po' destabilizzato lo schema tradizionale, insomma, della delegittimazione reciproca. Si è tentato di andare un pochino di più sui contenuti, certo i toni non erano proprio i migliori, però d'altra parte questo non è solo un problema della politica, è un problema anche dei media in parte, ed è un problema anche dei cittadini che comunque cercano anche un certo tipo di linguaggio, perché magari è anche un po' il nostro, ecco. Come insomma, concludiamo non citando la dottrina sociale della Chiesa, ma citando Claudio Bisio a Sanremo, ha detto: non sono preoccupato per i politici ma per gli elettori, e se miglioreranno gli elettori, intese come persone, come potrà insomma anche trovare l'Italia, alla fine la politica non è altro che lo specchio, certo, del paese. E credo che come cristiani noi dobbiamo lavorare per migliorare anzitutto noi stessi come cittadini, e poi per fecondare e fare da lievito perché siano i cittadini a essere esemplari nel loro modo di stare nella polis. Don Marco, la ringrazio, ci sentiremo nuovamente nelle prossime settimane vedendo come andrà avanti, come si risolverà, se si risolverà la situazione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Noi, carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima, alla stessa ora, sulle nostre frequenze. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, potete contattarci mandandoci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.